בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. 4 minuti dopo le 21 di questo ultimo giovedì del mese di giugno, quindi oggi è 27 giugno 2013. Buonasera da Blu Radio Veneto, ma soprattutto buonasera da Agostino Spolaore, che anche questo giovedì staccano vista come non mai, come sempre, è qui a presentare l'ennesimo live di questa serata, l'ennesimo appuntamento con la musica in acustico, con la musica dal vivo, con un cantautore. Prima però presento il mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovato anche a te. Anche a te. Beh, ci siamo visti lunedì. Sì, vabbè. Non tanto comunque, tempo fa. Ben ritrovato. Questa sera abbiamo un cantante che ci arriva da Terzo d'Aquileia, giusto? No. No, ho sbagliato. No. Da dove ci arrivi? Da Azzano Decimo Pordenone. Pordenone. Pordenone. Bisogna stare attenti, non so, qui c'è l'antagonismo qua. Il campanilismo tra Aquileia e Azzano Decimo. Sì, sì. Allora, prima di presentare anche la sua vocalist, cioè la Silvia Smaniotto, ciao esatto, Silvia. Esatto, buongiorno, buonasera. Altro che buongiorno. E prima di presentare ovviamente anche Andrea Cia, i nostri dati tecnici, quindi il nostro numero telefonico in studio, lo 049-875-6423, mentre per gli sms vi ricordo il 346-2320-033. Le nostre frequenze, se ci ascoltate tramite radio, ovviamente sono 88.700 e 94.600. 600 MHz in modulazione di frequenza. Se invece ci state ascoltando tramite lo streaming, ovvero sia tramite internet, tramite il PC, chiamatelo come volete, insomma siete sintonizzati ovviamente nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. Lì ci potete ascoltare 24 ore su 24 assolutamente in diretta, ogni qualvolta voi lo desiderate fare. Vi ricordo ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è gestita da Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, e si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Poi siamo anche su Twitter, ci trovate un po' dappertutto, insomma siamo come il prezzemolo sempre in mezzo, ma per proporre la propria musica e la musica bella Blu Radio Veneto proprio credo sia una delle principali artefici di questa idea. E ovviamente anche questa sera è così. Allora, benvenuto ad Andrea Cia e anche a Silvia Smaniotto, ovviamente. Grazie. Grazie. Fatto un buon viaggio? Sì, decisamente. No? Sì, abbiamo sempre parlato. Sì, sì. Ci aggiorniamo, ogni tanto ci troviamo e ci aggiorniamo. Già. Silvia praticamente è la nostra nuova collega qui di questa emittente, vero Silvia? No? Sei già offerta. Sei già offerta. Ti ho preso in parola. Ecco, esatto. Io ti ho preso in parola, eh. No. Sì, sì, sì. Sì, con calma, dai, mi piace. Ti piace. Sì. Maurizio. Sì, Andrea, caro Andrea, dunque, leggendo, scorrendo le tue note musicali, a me interessa una cosa all'inizio, è che ti sei subito buttato nel rock perché hai partecipato agli stream 1994. Mamma, sono un po' di tempo fa. Sì, un po' di anni fa, sì. Sì, c'era il grunge, esatto, grunge. Cioè, il periodo era quello. Nirvana, Guns N' Roses, Offspring, anche quello. Offspring, sì, certo, certo. Che non era proprio grunge, però gli Offspring hanno modulato il poi. Esatto, sì, a quell'epoca tra l'altro erano una delle novità, mi sembra, sì, di ricordare. E si faceva qualche pezzo proprio degli Offspring ed eravamo in quattro, come si vuol dire, sbarbatelli. Ok. E si girava tra birrerie locali, insomma, quello che si faceva delle ossa in quel tempo, esattamente quello. Comunque all'epoca si suonava abbastanza bene, cioè erano altri tempi ovviamente rispetto adesso, si fa un po' fatica. Ecco qua, giusto. Eccoli per parlare qua. Di Offspring. Gli Offspring poi hanno avuto un grande successo, però hanno attecchito. Esatto. E c'era questo chiamiamolo amore per la musica, in particolare quella musica, perché girava quello, no? Quello, anni 90. Tutto il giorno tormentava, no? E niente, siamo partiti, insomma. Poi avete cominciato una storia che poi è proseguita, sì, poi... con due gruppi. Cioè, prima hai suonato, hai partecipato a un concorso, Musica Libera. Sì. C'è stato. Questa è una roba importante. Esattamente, questa è stata proprio una manifestazione che ricorderò per tutta la vita. Bene. Perché avevano indetto questa manifestazione a Spilimbergo, a Gaio di Spilimbergo, dove c'era l'ex, che attualmente non c'è più, ma comunque c'era il Rototom, un locale. Era un locale famoso. Esattamente. E facevano questa. tre giorni non stop, quindi giorno e notte, con il parco tutto allestito, cioè la gente che arrivava dormiva in tenda, tutte queste cose qua, e facevano un po' questo... alla Woodstock più lana, insomma, esattamente, esattamente. E si partecipava con chi voleva, insomma, si iscriveva col proprio gruppo e si partecipava a questo contest che era stato fatto per protestare per motivi, adesso non entriamo nel particolare. Ti ricordi, ma non entriamo nel particolare. Non entriamo nel particolare perché si parla di SIAE. Ecco, perfetto. Per questo. Siamo entrati nel particolare. È per questo che non volevo. Ok. Vabbè, si manifestava per alcune scelte che erano state fatte dall'ente. Mi ricordo c'era un fottio di gruppi, eravamo in tantissimi. E noi all'epoca arrivammo ottavi su 80 partecipanti. Parecchio, quindi avete fatto un'ottima figura. Non ci credevamo neanche noi. Una bella soddisfazione. E io ricordo, non so se voi conoscete Cristiano Godano, che è il cantante Marlene Kunz. Che erano lì anche loro che ci guardavano. C'erano loro, c'erano i tre Allegri Ragazzi Morti. C'erano un bel po' di persone. I tre Allegri Ragazzi Morti adesso sono diventati importanti, che fanno la presentazione del tour di Jovanotti. Anche praticamente. Escono prima di Jovanotti nella band, però una volta erano sono sempre di Pordenone. Di Pordenone, sì. Un gruppo molto, molto interessante. Sì, sì. E niente, si fa sta cosa, mi ricorderò sempre, nessuno di noi aveva la patente, perciò è stato ingaggiato mio fratello, che era un po' più anziano di voi. Che è 4 anni più di me, io avevo 17 anni. Alle 2:30 di mattina dovevamo esibirci. Bello, come una volta. Quindi parti con la macchina, carica sugli strumenti, con mio fratello che ci porta su. Da guida, arriviamo lì, suoniamo e lì ho capito che forse avremmo dovuto essere un po' più professionali, visto che noi siamo entrati tipo con i cavi in mano, le chitarre in spalla, e invece c'erano gli altri gruppi tutti belli organizzati, con queste belle custodie. Abbiamo già il server, tutto belli, precisi. E noi siamo arrivati lì un po'. Dobbiamo sottolineare una cosa: tu hai parlato di Spilimbergo, i nostri ascoltatori più affezionati lo sanno. Spilimbergo c'è un festival meraviglioso ogni anno, il Folk Festival. Ah, sì, è vero, lo fanno ogni anno, è vero. Anche lo faranno fra qualche settimana, mi pare. Può essere, tra fine giugno, cioè proprio all'inizio di luglio. Sì. Ci sono i gruppi folk, e non solo i gruppi folk, spesso e volentieri arrivano i Jethro Tull. Hai detto niente, Ma vedi, caro Agostino, i Jethro Tull si identifica con gli Anderson adesso, certo. Che lui ha distrutto, ha allargato, ha ristretto, è sempre lui. In ogni caso, sono ospiti fissi del Folk Festival. Ecco. Mio fratello collabora con Clive Bunker, il batterista dei Jethro Tull. Un grande musicista. Quindi li conosci? Sì, esattamente. Nonostante non siano proprio dei miei tempi, direi di no. Ma continuano ad essere ancora certo, adesso. Ovviamente. Allora, Andrea, hai cominciato a andare sulle ali musicali, però nel 2004 ci sono due gruppi che scorrono le tue vicende sonore. Sono altri due progetti che avevo fatto, perché il primo era finito, classiche divergenze artistiche. Si cresce anche con le divergenze. Assolutamente, e da questo in effetti ho imparato. E nascono due gruppi quasi a distanza di un anno uno dall'altro, sempre musica rock. Controsenso e Flavò. Sì, due esperienze completamente diverse, perché erano improntate in maniera diversa, ma la musica era la stessa in sostanza. Come mai con i Flavò hai pubblicato un album Vita, Guerra e Pace? Perché erano i frutti messi da parte con l'altro gruppo, poi trasportati di là, visto che comunque già all'epoca scrivevo. Trasportate di là siamo riusciti anche a registrarlo, questo album, perché avevamo più possibilità, insomma, si cresceva un po', c'è chi aveva già qualche soldino da parte, quindi si entrò in uno studio di Sacile, mi ricordo, e tipo in due giorni abbiamo fatto un album. Una volta Michael Jackson ci metteva due o tre giorni per fare solo una nota, esatto. E voi in due giorni avete fatto Michael Jackson era Michael Jackson. Esatto. Adesso ci fermiamo un secondo, poi sentiamo qualcosina e poi proseguiamo il racconto. Benissimo. Hai scelto la traccia numero 2? Sì. Come mai? Ho qualcosa da dire? Perché il titolo è la canzone che dà il titolo all'album nuovo uscito a marzo 2012, quindi l'anno scorso. La title track. Sì. Esattamente, giusto? Sì. Ma non siamo italiani. Mi inceppo un po'. No, ma è bello dire title track, così siamo italiani. Siamo italiani, non siamo professionali, diciamo. Sì, title sì, track, sì, siamo, esattamente. Ed è un po' il succo del discorso del disco, no? Che appunto dice, ho qualcosa da dire. Molte volte noi abbiamo qualcosa da dire, lo trasmettiamo noi musicisti o cantanti o che siano tramite proprio la musica. Il pericolo è non essere ascoltati, non essere capiti, ma insomma si ha sempre qualcosa da dire. Ascoltiamo. Ti sembra facile cercare di capire, potersi esprimere senza litigare, giocare con le parole senza perdere il concetto, parlare libero, no. Si può sbagliare anche solo una parola, girarci attorno circa una mezz'ora, pensarci sopra molto lentamente, usare frasi per far colpo sulla gente. E sì, però così io non ci sto. No, io così non ci sto. Riuscire a comunicare le mie emozioni senza mai dover parlare, riuscire a esprimere i propri sentimenti ma senza aver paura e tenerseli tra i denti. E sì, perché così io non ci sto. No, io così. Sai cosa c'è? C'è che a volte per me non è facile parlare. Non è facile se chi mi ascolta no, non vuole sentire. Sì, ma io ho qualcosa da dire. Tanti mezzi fini ci hanno salvato pure messi nei casini. Ma sai cosa c'è? C'è che a volte per me non è facile parlare. Non è facile se chi mi ascolta no, non vuole sentire. Sì, ma io ho qualcosa da dire. Belle le tastiere qui, eh. E stavamo parlando appunto, Agostino, con Andrea. Queste tastiere molto anni 60, un po' Animals, proprio l'aspetto di questa stile nere. C'è il tocco di Marco. Perché ha voluto Marco ste cose, Andrea? Marco, citiamo Marco. Santo non cito. Che è il tastierista. Tastierista. È sempre stato tastierista nella tua band. Sì. Come lui mai ha voluto questa atmosfera nera? Ma diciamo che è stato preso questo concetto, cioè ho qualcosa da dire, in questo caso in musica è una cosa vecchia come il mondo, nel senso tutti quelli che hanno fatto musica, soprattutto quelli degli anni passati, che la facevano proprio col cuore vero e proprio, avevano qualcosa da dire. Per cui abbiamo detto perché non cerchiamo di ripescare qualche sonorità tra virgolette dell'epoca. Ok. E questo è stato un po' il ragionamento, chiaramente. Sì. È un ragionamento, ottimale, visto che io amo particolarmente, personalmente, quel genere, quel momento là musicale, è un momento fondamentale, perché dagli anni 60 è partito tutto, o quasi. Certo. Anche molto dagli anni 80, però dagli anni 60 sono partite tante cose che poi si sono sviluppate negli anni dopo. Assolutamente, sì. Bene, adesso facciamo una seconda puntata della tua vita artistica, poi passeremo alla Silvia. Certo. Allora, siamo arrivati nel 2007 all'incirca, hai fatto un anno sabbatico, ti sei fermato un anno? Sì, il classico anno, in realtà ho fatto un anno sabbatico, ma ho fatto una cosa bellissima perché mi sono sposato. Perfetto, quindi non è... Continua ancora a dire che è bellissima lui, quindi sua moglie sarà sicuramente felice. Beh, ma chiaro, ovvio. No, perché molti dicono ho fatto il danno quella volta. No. Silvia mi conosce da un po' di anni e ha sempre sentito questa cosa qua. Sì, confermo e sottoscrivo assolutamente. Quindi, c'è stato quest'anno, appunto, mi sono fatto una famiglia, ovviamente, però mi è servito anche per capire che effettivamente rimanere lontano dalla passione più grossa che avevo, che era appunto suonare, fare musica, non era il caso, nel senso che avrei comunque prima o poi ci sarei ricascato dentro e avrei ricominciato. Esattamente, ci sei ricascato nel 2007. Esattamente, nel 2007 quando ero a casa così, chitarra in mano, mi sono usciti dei pezzi. Lì per lì ho detto, me li terrò lì, lasciamo stare. Poi ho pensato su un po' e ho detto, perché non provare a ricominciare un attimo? Ma la differenza è stata che questa volta volevo fare, tra virgolette, da solo. Nel senso che volevo propormi come solista. In zona ricordo che non c'era nessuno ancora che lo faceva. Nessuno si sarebbe immaginato di prendere e mettere su una band... E che questa band di musicisti, soprattutto giovani, seguisse un solista sconosciuto che però aveva qualcosa da dire, ecco, no? Ecco. In musica. E quindi decisi di farlo anche per questo motivo, no? Devo dire che all'inizio m'ero preso per matto anch'io, però poi ho visto che la cosa cominciava a girare bene e alla fine ho continuato. E la cosa bella è stata contattare i musicisti, perché nella nostra zona c'è un grosso, adesso senza fare pubblicità ovviamente, perché c'è un grosso negozio, spazio musicale, dove anche una scuola di musica, dove fanno dei saggi e tutte queste cose qua, e conoscendo la persona che gestisce questa cosa mi ha detto, guarda, ti servono i musicisti, ma vieni ai saggi, vieni e mi dici, mi servirebbe quello. E questo, in parole povere, è quello che è stato fatto. Se non che ho trovato appunto questi ragazzi che tuttora, bene o male, c'è stato qualche cambio, ma insomma sono la crema della tua musica. Esattamente, è cambiato solo un il bassista ultimamente, esatto. Sono gli stessi del 2007. Praticamente il bassista è cambiato, per motivi personali, di studio, insomma. Anzi, approfitto per salutarlo e ringraziarlo ancora per quegli anni che ha fatto con me, insomma, ecco tutto qua. E niente, da lì è partita questa avventura da solista. Che è arrivato adesso, praticamente. Che è arrivato fino un adesso. Un anno fa, insomma, è uscito. Quanto ci hai messo a farlo poi quel disco? Quest'ultimo? Questo, sì. Perché ne avevi due prima. Sì, avevo fatto una demo per usarla di presentazione e poi un disco che si chiama Vent'anni. Vent'anni. E che è un disco, un concept in questo caso, perché era tratto da dell'esperienza che avevo fatto in dei campi estivi, semplicissimi, con dei ragazzi giovanissimi, e che quindi da lì mi avevano ispirato per certe cose, per gli argomenti di cui parlavano, per queste cose qua, al che ho cominciato a prendere degli appunti e lì sono venute fuori le canzoni per il disco. E poi sei arrivato a questo disco. E poi sono arrivato a questo disco. Agostino ti ha chiesto quanto ci hai messo a registrare. Per fare questo disco in realtà sono stati 4 mesi. Quindi non è stato un lavorone grossissimo, insomma. Ma ecco, le canzoni le avevi già? Le canzoni le avevo già da prima, perché ovviamente quando si va in studio, credo lo sapete anche voi, quando si va in studio bisogna avere tutto pronto, abbastanza chiare, anche ovviamente, economicamente. Economicamente assolutamente, soprattutto questo. Sì. Economicamente è un certo costo, insomma. E quindi bisognava avere tutto pronto, preparato, quindi erano già pronte da tempo, siamo andati in studio, ho fatto tutto quanto, insomma. Bene, adesso ci ascoltiamo qualcosa di tuo, poi facciamo parlare anche Silvia, poi interroghiamo Silvia. Poi interroghiamo Silvia. Prontissima. Ok. Andrei alla gogna. Dirò la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E sei registrata, quindi non puoi neanche. Aiuto. Okay. Cosa ci fate ascoltare adesso? Ma guarda, io ti faccio ascoltare un brano che ho scritto insieme ad una ragazza giovane del paese dove abito, e che racchiude un po', se mi permetti posso, certo, rubarti un po' di tempo, certo, che racchiude un po' un percorso che ho fatto insieme a dei dottori del CRODI Aviano, non so se sapete, sì, sì, di cosa si tratta. È un istituto, uno dei più grossi istituti che abbiamo lì ad Aviano, Pordenone, e che studia la formazione del cancro, sì, tumorali, eccetera. Esattamente. E è un centro sia di cura che di studio per i ricercatori, e grazie a loro c'è stato fatto anche ci sono state fatte delle attività insieme dei ragazzi, e in questa canzone sono raccolte le sensazioni di questi ragazzi rispetto a questa cosa. E ho fatto un tour praticamente per questa cosa, dove abbiamo raccolto dei soldi che abbiamo che ho donato in favore di questa cosa qui. E questa canzone a livello di testo racchiude un po' i pensieri dei ragazzi dopo queste attività fatte insieme, ecco, tutto qua. Ed è stata scritta insieme a questa ragazza che ha avuto la brillante idea di raccogliere tutte queste cose e sottopormele, e quindi poi è uscita questa cosa qui. Si chiama questa ragazza? Alice Pezzutti. Ciao Alice, se sei in ascolto. Se sei in ascolto ti salutiamo, esatto. Ci vediamo da Zano. Si intitola Non ho scelto io, e nel disco è stata cantata insieme a Sasha Torrisi, che è ex voce chitarra dei Timoria. Esattamente. E che ora attualmente con progetto Rezophonic. Sì. Ecco. L'ascoltiamo. Ho scelto io che il mio flebile respiro si confondesse col bisbiglio delle lente gocce che scendono da questo tubicino, come pioggia che cade inutilmente su di me. Non ho scelto io che il mio flebile respiro riecheggiasse tra le mura di questa stanza di ospedale, e anche se non riesco proprio a camminare, con la mente almeno posso viaggiare. Non avrei mai voluto scegliere di guardare le nuvole dalla finestra rinchiuso in una stanza. Ti confido, caro amico, che ho deciso e finalmente voglio correre ugualmente, anche solo col pensiero e con la mente, visto che non posso stare tra la gente e dimenticare tutte le paure, il male che c'è in me, e ridarti il mio sorriso, il mio respiro, per non farti preoccupare. Non ho scelto io che il mio flebile respiro accompagnasse tutti i sogni che ho fatto, che ho da fare, solamente per distruggerli e disperderli, per poi farmeli scordare. Non avrei mai voluto scegliere di guardare le nuvole dalla finestra, rinchiuso in una stanza. Ti confido, caro amico, che ho deciso e finalmente voglio correre ugualmente, anche solo col pensiero e con la mente, visto che non posso stare tra la gente e dimenticare tutte le paure, tutto il male che c'è in me, e ridarti il mio sorriso, il mio respiro, per non farti preoccupare. E dimenticare tutte le paure, tutto il male che c'è in me, e ridarti il mio sorriso, il mio respiro, per non farti preoccupare. Questa è una canzone che ti prende nell'animo, oltre alla musica cattivante, che quindi ci fa da contorno splendidamente, ma proprio è il testo che proprio ti entra dentro, ti colpisce. Sì, lì è una cosa un po' particolare, però insomma, varie esperienze personali mie e di questi ragazzi che hanno steso queste parole, insomma, ecco, quindi lì in questi casi devi raccontare la verità. Ah beh, c'è poco da fare, insomma, certo che sì. Maurizio, il tuo commento? Sì, musicalmente io ho scritto, noi della redazione abbiamo scritto qualche commento sui pezzi di Andrea, e questo è un ennesimo duetto. Sì. C'è il duetto con la Silvia, c'è il duetto con Sasha Torrisi, e questo è il duetto con Sasha Torrisi. Sì. Questo pezzo a me è piaciuto molto perché è una ottima ballata pop, è un centro perfetto scritto, sì. Può essere un ottimo singolo. Sì, è molto accattivante musicalmente, il ritornello è accattivante, la bellezza del pezzo è il ritornello, oltre al testo che è molto valido, come ha detto giustamente Agostino, è il ritornello che prende immediatamente, è stato costruito ad hoc, senso positivo, sì, per prendere immediatamente, per esatto, catturare l'attenzione dell'ascoltatore, e questo è un ottimo singolo per me. Effetti è il mio brano preferito, se posso dirlo. Sì, quando l'ho sentito ho detto: guarda Andrea, hai scritto delle belle canzoni, però questa è la mia preferita. Questa è fatta molto bene, molto bene anche le altre, però questa è costruita perfettamente, sì, cioè proprio prende immediatamente, senza al primo ascolto, e vuol dire che è una cosa centrata. Quando un pezzo prende al primo ascolto, cioè, vuol dire che è un pezzo perfetto. Cosa dici? Sì, esatto, no, sono assolutamente d'accordo. Infatti ho tentato più di qualche occasione, insomma, di farlo anche ascoltare, perché per noi, vabbè, per tutti, insomma, è un argomento abbastanza delicato, importante, ma ci tocca anche molto da vicino, perché ormai, insomma... Certo. Purtroppo le cose stanno andando così, e quindi un brano comunque... La cosa che mi piace molto di questo brano è che non è un brano triste, no? No, perché stiamo parlando comunque di un argomento tremendo, terribile, esatto, soprattutto parliamo del punto di vista di un bambino, certo, quindi è ancora peggio. Ma ti dà appunto tanta carica, no? Infatti a me piace molto per questo. Infatti in un evento benefico che dovevo fare, al quale dovevo partecipare, è stata la prima cosa che ho proposto. Ho detto: ragazzi, il brano di Andrea secondo me è perfetto, perché alla fine dà comunque una speranza, no? Appunto anche la musica accattivante di per sé dà la possibilità, insomma, di... Non so, crea un'energia, ecco, questa cosa qua secondo me lo rende veramente vincente. Perché piace il duetto, questo è anche fondamentale. Infatti la cosa dover parlare di una cosa così, che ovviamente è triste, e utilizzare anche magari una musica triste o comunque delle parole tristi sarebbero state un po' forse troppo. In questo caso si parla un po' anche di speranza, se certo, vogliamo, assolutamente. E quindi l'ho sentita così, l'ho voluta fare così. Benissimo. Punto. Sarebbe stato troppo facile scrivere il dramma proprio nudo e crudo. Sì, forse sì, sì. Sì, certo, immagino. Beh, Agostino, adesso intervisti la Io arrivata la mia. Beh, intanto io, curiosando nella sua pagina di Facebook, perché io sono una persona molto curiosa, mm-hmm. quando ti ho conosciuto così ho scoperto, e poi anche su YouTube, ho scoperto che hai cantato, come ti dicevo prima fuori diretta, con una cara amica di Blu Radio Veneto, cioè Terra Naomi, mm-hmm. e avete fatto una serata splendida, oltretutto, sì. mi risulta. Sì, sì, sì, è stata un'esperienza incredibile. Io in realtà con Terra Naomi l'ho conosciuta in un'occasione bellissima per me e in un luogo altrettanto bello che è Los Angeles. Very well. Very well. Sì, è stata un'esperienza particolare perché alla fine non dovevamo partire, poi non avevamo i visti di lavoro, insomma si sa che gli Stati Uniti non è che fanno entrare tutti così. No, esattamente. E per cui sembrava che questa cosa saltasse, invece l'ultimo minuto è stata confermata, abbiamo preso la valigia e siamo partiti. E appunto in questo concerto che doveva fare Lisa al Ford Amphitheater di Los Angeles c'era anche Terra Naomi, che è appunto questa artista che insomma ha raggiunto un obiettivo non da poco, in quanto è stata, insomma, il video che lei ha caricato su YouTube del suo brano è stato il video più visto di YouTube di quell'anno, parliamo del 2006-2005, non mi ricordo, e grazie a questo brano che si intitola Say It Possible ha avuto la possibilità di esibirsi come unica artista indipendente, che non è una cosa da poco, a Live Earth organizzato da Al Gore, che è stato uno degli eventi insomma più grossi della musica negli ultimi 10 anni. Vicepresidente degli Stati Uniti. Esattamente. Per cui insomma lei ha scritto questo brano meraviglioso, abbiamo avuto la possibilità, io ricordo avevo il jet lag, ero stanchissima, e abbiamo fatto prove fino alle 2-3 di mattina, che per me erano le 9 di mattina, quindi fate un po' sì, conto sì, certo, com'era. Certo. E ho un ricordo di lei proprio incredibile, in quanto aveva questa voce cristallina, impressionante, bello. Canta in una maniera splendida, mm-hmm. suona molto bene la chitarra e il pianoforte. Certo. E niente, è venuta, poi ha fatto appunto la sua tournée da artista indipendente, per cui lei veramente si trova a dei ragazzi straordinari che la seguono qui in Italia, che li saluto se magari stanno ascoltando, e loro sono giovanissimi, lo fanno proprio per la passione della sua musica, e le trovano questi ingaggi, ma che sia il baretto, che sia il teatro, lei viene... insomma lei non ha nessun tipo di problema, no, prende in mano la chitarra o quello che è, insomma quello che è il pianoforte, e comincia a suonare, a cantare. E niente, io e Nicole Pellicani, l'altra mia collega, nonché corista di Lisa, anche lei, e abbiamo avuto... Siamo state contattate da questi ragazzi, ci hanno detto guardate c'è Terra qui, avete voglia di fare qualche brano insieme? Mi detto caspita, assolutamente sì. E allora sono venuta proprio qui vicino a vederla a Padova al Fish Market. Sì, sì. E quindi ci siamo ritrovate, insomma è stata una bellissima serata, e poi qualche giorno dopo a Copparo in provincia di Ferrara per gli Eco Days, tra l'altro un evento assolutamente meritevole in quanto appunto parlava di ecologia, insomma... Era la serata finale, diciamo, di questo progetto che durava qualche giorno, e noi abbiamo avuto la possibilità, insomma, di essere le uniche ospiti anche di quella serata, e abbiamo riproposto, oltre a qualche brano suo, abbiamo riproposto una versione fatta da lei di Billie Jean di Michael Jackson, e in più anche un brano che mi è entrato nel cuore, che è diventato... Io ogni volta che faccio il soundcheck canto quel brano lì, in quanto ha delle parti molto basse e molto alte, per cui è un brano assolutamente perfetto per poter regolare i suoni, okay. Che è River di Joni Mitchell. Oh. Ok. E abbiamo riarrangiato, grazie agli arrangiamenti che aveva fatto Elisa, insomma abbiamo un po' poi mescolato un po' di cose che avevamo fatto anche noi, e abbiamo cantato praticamente questo brano quasi totalmente a 3 voci. Accompagnati da una chitarra acustica, e niente, ed è stata una delle cose penso più belle che io abbia mai fatto, proprio parlo a livello emotivo per quel che mi riguarda, infatti ogni tanto vado su YouTube a guardarmi i video perché mi riporta un po' Sì, in un'atmosfera molto, molto, molto piacevole. Lei è stata veramente carinissima. Dovevamo fare tra l'altro anche il disco live, però non c'è stata la possibilità per vari motivi. Ma sappiamo già che, insomma, appena la possibilità di ritornare, sicuramente sì. Ma poi ci viene a trovare anche noi. Ecco, dai, allora quando verrà a trovare voi mi chiamate, così certo, vengo a farle una sorpresa. Sai che è uscito comunque il disco dal vivo? Non sei, l'ha fatto il disco. Infatti, dovevamo essere presenti proprio anche noi in quel disco, poi ripeto, per una serie di contrattempi non ce l'abbiamo fatta, però molto bello, io ce l'ho a casa. anche il suo disco stesso, poi voi lo sapete meglio di me, lei si fa autofinanziare dai fans, è veramente ha un metodo incredibile. Ma è uno spirito diverso dagli artisti italiani, perché abbiamo avuto un esempio anche con Chiana Maurizio, ti ricordi? Esattamente. Anche lei, semplice chitarra, va dappertutto, non c'è nessun problema, il contatto con i fans, ma proprio in una maniera, e viene da Honolulu, dalle Hawaii, e ha fatto una serata qui, anzi due volte in due anni. Ma è di una semplicità unica. Infatti, e sono grandi artisti anche. Esatto. A livello, lei è proprio terra, la vedi che lo fa proprio perché perché ama quello che fa. Cioè, no? Alla fine non ha una vita, essendo anche artista dipendente, non ha una vita di sfarzi, di lusso, di chissà cosa. Lei quando ha pagato l'affitto si porta dietro il cane, contenta così e basta. Sì. Ed è questo, è bello, lei ha fatto dei brani veramente impressionanti, meravigliosi, un artista. Piccolo dettaglio, se volete risentire Terra Naomi qui a Blu Radio Veneto, c'è il podcast, potete tranquillamente ascoltarlo, scaricarlo, fate quello che volete, insomma, dell'intera intervista. Però parliamo di te, insomma, tu hai nominato spesso e volentieri Elisa, insomma, adesso tu sei una corista che ha seguito Elisa per tantissimi tournée. Sì, diciamo che dal 2008 ho lavorato con lei in pianta stabile fino al 2011, adesso si vedrà, insomma, ha avuto degli eventi nella vita, è diventata mamma per la seconda volta, adesso per cui, insomma, è un po'... Hai delle grandi soddisfazioni? Sì. Sì, personalmente sì, poi la mia è un po', dato che abbiamo un po' di tempo ve la racconto, un po' la storia di Cenerentola, in quanto io con la mia band praticamente siamo un tributo ad Elisa, adesso non particolarmente, però in quegli anni lì sì, nel 2008 eravamo un tributo a Elisa e cantavamo, io insomma... Lei è sempre stata il mio riferimento musicale per quel che riguarda comunque la musica italiana. Il fratello praticamente. Esatto, noi abbiamo fondato questa band che si chiama Sylvia and the Waves, che comunque riprende anche in qualche modo un titolo di una sua canzone molto bella. E niente, noi abbiamo fondato questa band nel 2007, era diciamo forse l'unica tribute band di Elisa all'epoca in Italia, forse qualcosina verso Roma mi pare, però... All'epoca eravamo gli unici, quindi pian piano, non so, era una cosa strana, erano tutti un po' titubanti, perché comunque non è un genere sempre che fa, come si dice di solito, i gestori che fa vendere la birra, no? Ok? Al massimo qualche Coca-Cola, però lì abbiamo cominciato ad avere, insomma, delle belle soddisfazioni. Poi grazie alla testardaggine di mio fratello, che a me invece manca a volte... Ero stata contattata io da una tribute di Ligabue che mi ha detto: guarda, a noi piacerebbe molto che tu facessi con noi gli ostacoli del cuore, perché il nostro batterista al momento è Andrea Fontana, batterista di Elisa storico, insomma. Io lì sono impazzita, la cosa non è andata in porto, non ricordo per qual motivo, esattamente proprio questa. Però io non volevo, ho lasciato perdere, invece mio fratello fa: no, prendiamo la macchina, andiamo sullo stesso. Siamo andati alla festa della birra di Udine, che è enorme, a vederli. Finita la serata abbiamo conosciuto Andrea e gli abbiamo chiesto: guarda, noi suoniamo i brani di Elisa, se un giorno ti chiamiamo a fare qualche brano, ci vieni? E lui ci ha detto: sì, dai, proviamo. E l'abbiamo invitato poco dopo, insomma, lì da noi, ci ha ascoltato alle prove, insomma, eravamo terrorizzati, ovviamente. E a fine prova, non so se fosse per complimentarsi con noi o se fosse addirittura un modo per dire, boh, non so, diamogli un po' di un contentino a questi ragazzi, ci ha detto: guardate, io provo a contattare anche Max Gelsi, bassista di Elisa, per fare questa serata. E noi: ma come? Cioè, no, pensavo di farlo secondo te. Cioè, no, per loro è una cosa semplice. No, cioè, tu. Non è come Max, anche lui. Guarda, io provo a contattarlo, poi se lui vuole venire, viene. E in quel momento lì la cosa è andata in porto e abbiamo fatto questa prima serata nel 2007. Abbiamo fatto questa prima serata ed è andata molto bene. Insomma, da lì poi abbiamo mantenuto i contatti con Max e con Andrea, abbiamo fatto altre serate. finché succede che nell'estate del 2008, che era l'anno della mia maturità, eh sì, me la ricordo abbastanza bene. E quindi decidiamo... abbiamo capito che è giovanissima. Abbastanza. Una pischella. No. Dipende dai punti di vista. E, allora nel 2008 decidiamo di fare ancora questo evento. Anche lì io ero un po' timida, non volevo chiamare i coristi. Mio fratello fa: sì, dai, chiamiamoli, invitiamoli. E abbiamo insomma chiesto, oltre a Max, di fare questa ospitata con noi, anche a Nicole Pellicani e a Massimo Bonanno. Tra l'altro è un bravissimo autore, lui con il suo progetto Dank ha fatto delle bellissime cose, ha aperto Vasco Rosso e l'Heineken Jamming Festival, Ligabue a Cividale, insomma hanno fatto delle belle cose. E niente, insomma questi vengono lì, cantano con me, finita la serata mi guardano e mi fanno: oh guarda, io te la dico così, se un giorno Elisa dovesse aver bisogno di una corista sappi che noi facciamo il tuo nome. E io sono... Come? Ma... cioè l'ho preso come se fosse un complimento enorme, ma mai come se potesse essere una cosa fattibile, no? Anche perché insomma ero veramente, nonostante io canto da quando avevo comunque 11 anni in band, insomma ho sempre avuto esperienza di palco, non ho mai avuto un'esperienza a quei livelli lì, insomma poi con il proprio mito era una cosa veramente certo. Impossibile. Finché niente, un giorno, ricordo, e anche questo è un aneddoto abbastanza interessante, e io appunto per l'estate non avevo un lavoro, no? Quindi davo ripetizioni. E mio papà era contento fino a un certo punto, perché bisognava lavorare un po' di più. E quindi mi ha detto: sai cosa fai? E vai a fare la vendemmia con tuo zio. Beh certo, ci vuole. E io vabbè, allora parto, non vi immaginate, cioè io gli stivali di gomma, vado a fare la vendemmia da mio zio. Un giorno torno a casa, mi viene a prendere lui soddisfatto a vedermi stanca morta dopo 8 ore di campo. Torno a casa e sento il telefono vibrare. Avevo il telefono sulla tasca dei pantaloni e avevo gli stivali in mano. E dico: cacchio, adesso chi è che mi chiama, no? Sei presente quelle situazioni, sì, un po' che così. Non sai come. Guardo il telefono, Max Gelsi. E ho detto, ma mio papà ha detto: guarda, Max, boh, pronto? Senti Silvia, mi fa, siediti. Però. Così. E io ero sul pianerottolo di casa e mi sono seduta. E quindi ero lì. E come papà che mi guarda come per dire: ma cosa stai facendo? E in quel momento lì mi dice: senti, tira fuori l'agenda. E gli dico: sì, sì. A un certo punto mi fa: sei libera il 16 settembre, 20 settembre? Mi comincia a dire delle date che a me risultavano abbastanza familiari, perché io per il 20 settembre avevo comprato un biglietto per l'Arena di Verona, perché c'era il concerto di Elisa. E io al momento ho detto: sì, sono libera. Mi fa: no, perché il discorso è questo. Allora, Elisa ha deciso che insomma noi stiamo facendo questo mega spettacolo e tutto. All'inizio pensavamo che le coriste non fossero necessarie, almeno sono sempre necessarie per quello spettacolo. Lei era convinta che insomma si potesse fare anche senza. Invece ieri ha detto no, ieri ha detto: voglio le coriste. Per cui ha detto: è un problema, perché non possiamo trovare nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che sia pronto, che sia disponibile e che costi poco, perché il budget è stato chiuso, no? E quindi lui mi diceva queste cose e io nel frattempo ero lì che dicevo: ma sto sognando o sono sveglia? Perché non capivo. Certo. Tra l'altro io pensavo lui mi avesse chiamato, perché il giorno successivo c'era il raduno del fan club di Elisa, per cui pensavo il top, cioè proprio l'idea più incredibile che mi era venuta, che mi facesse cantare a questo raduno. In realtà no, era ben oltre a tutte le mie aspettative. E niente, insomma mi dice: guarda, io ti dico, domani ti do i brani e ti proviniamo e se va bene parti. E sei partita. E io mi sono distesa per terra. Facciamo le scale, con però. Mio papà sulle scale, con mio papà che mi guardava e mi diceva: io non puoi capire, non puoi capire. Siamo entrati in casa, insomma gli ho detto questa cosa qua, mia mamma non ci credeva, abbiamo passato 20 minuti a tentare di convincerla. Finché poi alla fine si è convinta, il giorno dopo ho preso questo disco, questo CD, l'ho ascoltato, l'ho frugato, finché insomma ho imparato tutto. Lunedì sera abbiamo fatto prove dalle 10 di sera fino alle 3 di mattina, penso, a Monfalcone. Lei non c'era, perché in quel momento era in Germania a fare altre promozioni, per cui eravamo io, Nicole, che aveva già fatto la tournée, insomma, le tournée precedenti, e che aveva collaborato con me in quella serata, insomma, e ci siamo divise le parti, tu fai le basse, io faccio le alte. proprio così. Ah. E ci hanno registrato praticamente per tutto, insomma, questo provino. E dall'altra parte avevamo i fonici, no, di Elisa, tra l'altro, tra cui Mauri Maggi, che è uno dei fonici, insomma, più importanti che abbiamo in Italia. E lui ci ha detto: ma sì, potrebbe andare bene, ragazzi, siamo a posto. E niente, praticamente io, questo è successo il venerdì sera. Il lunedì ho fatto il provino, il mercoledì ero in viaggio per Pesaro per l'allestimento del tour. Quindi voi immaginatevi che io in quattro giorni e mezzo, mi è cambiata completamente la vita. E mi sono trovata, tra l'altro, in uno degli spettacoli più grossi che sono mai stati fatti in Italia, perché c'era un palco a due piani, c'erano 100 comparse, c'erano 15 ballerini, era tutto coreografato da Luca Tomassini, c'erano, insomma, tre cambi d'abito, non vi dico, cioè uno spettacolo vero e proprio. Incredibile, tra l'altro degli eventi unici, perché era nato solo come Arena di Verona, poi Milano, Roma e appunto questo allestimento di Pesaro, per cui ho fatto queste quattro date in una maniera assolutamente surreale, perché non mi rendevo assolutamente conto di quello che stavo facendo. E con il 10 di ottobre è finito tutto, per cui ho detto: boh, ok, cominciamo con l'università. E mi sono iscritta a Ca' Foscari a Venezia in con una laurea in lingue. Da lì ho cominciato a studiare, convinta che, insomma, sarebbe morto lì questa bellissima esperienza. Invece cosa succede? Pochi mesi dopo avviene quel tragico evento del terremoto dell'Abruzzo e la Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia, Gianna Nannini ed Elisa organizzano questo mega evento allo Stadio San Siro. Anche lì le coriste non erano previste, doveva essere, insomma, un'esibizione comunque breve. Succede che io, dopo un esame all'università, tre giorni prima dell'evento, ricevo la telefonata: guarda che ha cambiato idea. No, oddio. Ancora. Sono andata. Anche lì è stata veramente una cosa impressionante, perché lo Stadio San Siro completamente esaurito non è una cosa, certo, da immagino, tutti i giorni, immagino. Per cui è stata una botta allucinante anche lì. E anche lì ho detto: boh, basta, finita. E invece la cosa continua. Se abbiamo fatto il tour di arte, che è stato meraviglioso, sia invernale che estivo. Poi c'è stata la registrazione di Ivy, che è stato, insomma, che è questo disco acustico, questo progetto acustico, dove c'erano sia dei brani inediti che dei brani editi riarrangiati appunto in questa versione. E per cui ho avuto anche un'esperienza, insomma, interessante, come quella dello studio di registrazione con un artista del genere, certo. Perché di è solito bello. Non so se tutti lo sanno, però i cantanti si fanno i cori da soli. Negli anni 80, quando c'erano budget particolari, si chiamavano i coristi. Ma e tu Andrea, scusa, ti interrompo, tu Andrea ti facevi i cori da solo prima di chiamare Silvia? Ma la cantavo, me la suonavo. Senti, interrompiamo un po' Silvia, facciamo ascoltare un po' della tua musica, insomma, del tuo disco, sei venuto qui per questo. Sì. Adesso io ti sprono però a cantare due canzoni di seguito. Perché sì, volentieri. Un po'. Allora, cosa ci fai sentire? Io vi faccio sentire una canzone di un artista che ho scoperto molto troppo tardi, intendo troppo per me, troppo tardi, avrei potuto scoprirlo prima, e che mi piace un sacco, che è Joe Cocker. E la canzone è When the Night Comes, e poi io e Silvia vi facciamo sentire Neve. Che è sul disco, che è la canzone che mi è piaciuta subito. Sai che te l'ho anche detto, ti ricordi? Sì, mi ricordo benissimo. È che purtroppo c'è solo un video di questa canzone con Silvia su YouTube, che non si sente neanche tanto bene, purtroppo. Sì, infatti deve essere di un live, forse la presentazione del disco, non mi ricordo. Non so se sia un live, forse quello che ha fatto che è stato registrato in studio. È un live. Allora quello della presentazione del disco al Polo, che non si sente benissimo, vabbè. La sentiamo adesso questa sera. Prego. Ok. Hold on, I'll be back for you, won't be long. But the now is something else, it's calling me. So take me down a lonesome road, promise to let me go. A suitcase weighs me down, memories. I just wanna be the one to run to. I wanna be the one to come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's pull all the care behind us and go wherever never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. To a spirit tonight, I can leave before the morning light. But there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So keep me on the end of time, I give the weight, I'll be right. Let you and I, will this roll, I ride here. I just wanna be the one to run to. I just wanna be the one to come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's pull all the care behind us and go where we'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know the feel time with you and I. Good take I hear the broken wind. Take it for the pieces of the shattered dream. We're gonna make it up someday. We'll come back, back to stay. When the night comes, I wanna be the one to run to. When the night comes, to be the one you come to. When the night comes, I wanna be the one to run to. I just wanna be the one to run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone. When the night comes, let's pull all the care behind us and go where we'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. Oh, oh, oh, when the night comes. Oh, oh, oh, when the night comes. Oh, when the night comes. Oh, oh, oh, oh. Bravo. Bravissimi. Giocò, che sicuramente grazie. È stato soddisfatto. Ma speriamo, è un grandissimo artista, insomma. Grande artista. Non è facile. Adesso però abbiamo due grandi artisti qui che ci cantano Neve, una canzone degli Audio 2 scritta per Mina, giusto? Sì, esattamente, per Mina, da un album Sorelle Lumière, che era il singolo, vero Andrea? Esattamente, sì. 1992 stato... mi pare. Credo di sì, 92, è stato scritto... Famosi sì. Album disegnati di Mina, certo, tanti certo. Album disegnati. È stata scritta per questa grande artista e ho... la sentii per la prima volta in un concerto scolastico che facemmo nel 1996 e allora dei ragazzi più grandi di me allestirono a scuola questo concerto dove suonarono questa canzone che la prima volta che la sentivo ti ha colpito esattamente, mi ha lasciato subito e da allora me la sono portata dietro. Qualcuno diceva che gli Audio 2 erano i cloni di Battisti. Sì, c'era questa voce. Questa voce tendenziosa che sì, girava. Beh, assomiglia molto. Allargato volutamente. Assomiglia poi. Molto. Beh, sinceramente vorrei essere anch'io il clone di Battisti. Sì. Cioè, per cui non capisco cosa ci sia di male. Mica. Dobbiamo sottolineare una cosa, che la versione di Andrea e di Silvia è chiaramente leggermente è smontata rispetto sì. La melodia esiste, però l'avete smontata, nel senso l'avete fatta vostra. Esattamente, sì, cioè nel disco addirittura in versione orchestrale, esattamente, pianoforte, archi e tutto quello che si vede. È molto molto etereo. Abbiamo detto partiamo con i cori, da lì non ci siamo mai più fermati. Per cui è diventato una specie di quasi coro di voci bianche, perché ho cantato volutamente un po' appunto in questo modo etereo, no? Senza vibrati, molto molto semplice, ecco. Ricordiamo che questa è sempre Blue Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Sculaore che assieme a Maurizio Calzavara vi sta regalando, insomma, il disco, o meglio la musica di Andrea Cia, che il disco che si chiama Ho qualcosa da dire. Assieme a lui c'è la corista, la sua vocalista, chiamata, insomma, la sua cara amica, una cara amica di questa... bravo innanzitutto ed è Silvia Smaniotto. che prossimamente sarà la nostra collega. Farà una performance al microfono. Ok. Prego. E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo. A pensarci è così, chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei, sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già, e non sai più dove, è solo un'immagine che va, e sei nella mia mente. Sì, solo nella mia mente, così, soltanto nella mia mente. Son vago nella mia mente. Chi di noi ne ha già un'idea? Vederti e non parlarti mi dà un brivido. Folle mania di chi non sa che sia un amore nuovo che sta nascendo qui. È già nella mia mente, ma sei, sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già, già, e non sai più dove, è solo un'immagine che va, e sei nella mia mente. Sì, solo nella mia mente, così, soltanto nella mia mente. Son vago nella mia mente. Come la neve sei, che tocchi e sciolta già, già, e non sai più dove, è solo un'immagine che va, e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente. Così, soltanto nella mia mente, son vago nella mia mente. Ah, ah, ah, ah. Che bella questa canzone, mi piace molto. Mi è sempre piaciuta molto anche perché, come l'avete proposta anche nel disco, insomma, quando ho ricevuto appunto il disco di Andrea, che l'ho sentito, io gliel'ho detto subito, questa è una canzone che mi piace tantissimo. Poi, insomma, scoprendo che è anche una canzone, tra l'altro, non tua, senza voler toglierti i tuoi demeriti, però, insomma, l'avete cantata veramente molto bene. Grazie. Vi porto i saluti e i complimenti di un nostro collega che lo sentite solo di mattina, perché lui di sera non c'è mai, che si chiama Francesco Galante, lui è qui, lui veramente lavora qui e vi fa i complimenti soprattutto per la canzone di prima, dice che è stata una canzone veramente bellissima, interpretata molto molto bene, vi fa i complimenti sinceri. Grazie, grazie mille. Grazie. Ciao Francesco, mi raccomando, fai bravo papà, ecco, ne ha tanti. Esattamente. Sì, giustamente Agostino tendeva a sottolineare la difficoltà di un pezzo come Neve, non è un pezzo semplice. Intanto è stato scritto per Mina, e già scrivere un pezzo per Mina, già uno quando fa un pezzo di Mina già deve stare attento come fa un pezzo per Mina. Chiaro. Poi l'avete duettata. Mina si sa, può fare quello che vuole musicalmente. Può andare, può praticamente prendere qualsiasi pezzo, trasformarlo, ricreandolo, ricostruendolo come Mina. Esatto. Voi l'avete fatto bene, perché e poi il discorso di aggiungere gli archi versione orchestrale è una cosa intelligente, interessante. Sì. Allontanandosi da quel modo là di fare, certo. Un singolo, certo. Qua non è un singolo, è un pezzo dell'album, non è un singolo. Certo. Lì c'è stato un gran lavoro da parte di Nico Dorico, che ha curato la registrazione dell'album all'Angel Wing Studio di Varmo, Udine. E diciamo che ha creato tutta quella sonorità di archi e di pianoforte. Ma l'idea è stata tua? Sì, diciamo che in sala prova, in studio, come volete, era stata scritta pianoforte e voce. Ah, okay? Solamente. In realtà poi è stata fatta una versione che, come la facciamo tuttora, pianoforte, voce e quindi tutto il resto della band, sì, con batterie e tutto quanto. Certo. E in studio in realtà l'abbiamo registrata pianoforte, voce e archi, proprio per creare una cosa particolare. Ho capito. Io tutto vorrei far sentire 30 secondi l'inizio di questa canzone. Sì, va bene. Ci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo. A pensarci così, chissà dov'è Sei come la neve. A proposito di neve, io e Andrea l'anno scorso abbiamo avuto il modo di cantare questo brano ad un'esibizione di danza, un saggio di danza. Infatti stavo pensando proprio a questa cosa qui. E hanno sparato della neve finta. Sì, ed eravamo a giugno. Eravamo a giugno. Ma voi lo sapevate di questa cosa? Sì, l'avevamo provato anche. L'abbiamo provata, però dovevo dire una cosa, che alle prove ne avevano buttata molto di meno. È un costo, quindi capisci. Mentre durante l'esibizione avevamo la neve anche dentro al naso, per cui è stato però è stata scenograficamente una cosa bellissima, anche perché eravamo in un teatro di Pordenone, al Teatro Verdi, che è stato rifatto nuovo, ed è meraviglioso, è un impatto incredibile ed era tutto pieno, quindi si parla di 900 persone circa. Le ballerine ballavano tra l'altro dietro un po' in penombra, no? Appunto per fare questa coreografia un po' particolare, il discorso della neve finta, la canzone, tutto l'arrangiamento, effettivamente molto bello, è stata una delle cose coreografie più belle di Cinzia Piscopo, che ci tengo a nominare, visto che ogni tanto collaboriamo in qualche spettacolo che faccio, anche queste ragazze che fanno delle coreografie, cose un po' particolari, insomma, è stata una bella esperienza, sì. molto bello, positiva, sì. Insomma, sì, sì. Assolutamente positiva. Quanto la sentite dentro di voi questa canzone? Io tantissimo. Sì, beh, se tu te l'hai detto anche tu. Da dove arriva, no? Che mi l'ho sentita in un momento particolare, che ero a scuola, quindi mi ricorda come si dice, no? I bei tempi. E poi è la classica cosa che o vedi o ascolti e ti rimane lì per sempre. E questa è una di queste, insomma, certo. Mi è sempre rimasta. Nel mio caso lui me l'ha fatta conoscere perché appunto mi ha proposto di fare il duetto. Ed effettivamente io la conoscevo, ma non così approfonditamente, non sapevo neanche, insomma, gli autori, chi fossero, l'avevo sentita così da Mina, però effettivamente è un brano che, diciamo, sono contenta di aver scoperto, ecco, certo. Questo è poco ma sicuro. In pratica l'avresti voluta scrivere tu, insomma. Ovviamente, ovviamente sì. Senti Andrea, come nascono le tue canzoni a proposito? Quelle tue e tue. No, domanda da un milione di dollari, nel senso che me la fanno in 50.000. La facciamo anche noi, 50.000. La domanda esatta mi fanno, ma tu scrivi prima i testi o la musica? Ah sì, ma quella è la classica o domanda. O McCartney, uno dei due. Vabbè. Esatto. Quella è la classica domanda. Ma... come scrivere canzoni, tutto sta nell'ultimo disco e nella title track, vediamo, e che ho qualcosa da dire. Io credo che per raccontare delle cose, e le canzoni per me sono un racconto in musica, per raccontare delle cose devi avere delle cose da dire, devi aver fatto delle esperienze, devi aver vissuto delle esperienze particolari per poterle raccontare. Poi che io le racconti scrivendo un libro dove i capitoli del libro sono le canzoni e il libro intero è il disco, o che io lo faccia con un disco, cambia poco. A me personalmente non cambia niente, certo. Ho scelto la musica perché lo so fare un po' meglio che se no scrivere, ecco, tutto qua. Altrimenti avrei provato a fare lo scrittore o avrei provato a fare il pittore. Tutto qua. Tu hai detto una cosa giusta, cioè sei arrivato a questo, a questo disco, anche al precedente, perché hai provato, hai continuamente provato, sì. Ti sei fatto vedere, fatto sentire, ti sei messo davanti al pubblico, e quello è fondamentale. Purtroppo parlavamo a microfono spento, adesso spesso capita che vengono sparati davanti al pubblico gente che non è colpa loro, non hanno provato prima, sono stati costruiti. Infatti, perché non c'è ancora, non c'è più il cosiddetto blood, sweat and tears, sangue, sudore e lacrime, perché un musicista deve dare sangue, sudore e lacrime, cioè deve continuare a sperimentare. I Beatles continuavano a sperimentare sempre, anche se si chiamavano Beatles. Io se mi posso permettere, da 3 anni, 4, adesso non mi ricordo più da quanti anni che ti conosco, non tantissimi, quindi 4-5 anni, insomma, che l'ho conosciuta in un locale. E mi chiedevo come mai fuori c'era un manifesto con scritto Tribute Band Elisa, no? Elisa. Poi entro dentro e vedo sta ragazza, sta personaggio qua che, che stava cantando, no? E in realtà riconobbi Max Gelsi che era lì. Sì. E poi in realtà, a dir la verità, prima di lei ho conosciuto i suoi genitori. Ecco. Perché in realtà io avevo un mio parente che conosceva, quindi i tutta una serie di cose Silvia, stranissime, boh. E poi va bene, ci siamo conosciuti così. E da quando ho conosciuto loro, però, per la serie non si finisce mai di imparare, ho imparato anche a come si lavora seriamente con la musica. Ecco, quello. Loro adottano tuttora un metodo che probabilmente gli è stato insegnato, un po' ce l'hanno dentro, un po' gli è stato insegnato da qualcuno, e me l'hanno trasmesso. Da quando ho conosciuto loro ho cominciato a prendere in considerazione determinate cose su come lavorare, ok? Non è importante quanto fai, è importante come lo fai. Potresti anche fare un concerto all'anno, ma quel concerto deve essere fatto con determinati criteri e fatto bene. E se c'è una persona che devo ringraziare, oltre a loro ovviamente, lei, suo fratello, è proprio Max Gelsi, che ci sta ascoltando. Ah, vabbè, tanto mi ha scritto un messaggio, prima vi sto ascoltando. Ciao Max. Vieni a trovarci, Max, quando vuoi. Ti aspettiamo qui. Che entrando proprio in studio con lui poco tempo fa, perché sto preparando qualcosa di nuovo per il prossimo anno, e che concluderò sempre con lui, sotto la sua guida. Lavorando un po' con lui, anche semplicemente parlando con lui, ti rendi conto che bisogna fare le cose in un determinato modo. E questo... anche se sono poche, ma bene. Va bene. Questo è fondamentale, assolutamente. una delle cose che hai fatto bene, sì, sono le canzoni del grazie disco. La traccia numero 3 che adesso ascoltiamo, sì, si chiama Ascoltami. Sì, l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Certo, vabbè? Assolutamente. Lasciatelo dire, ascoltami. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Io lo dico sempre, quando si sta in bella e buona compagnia il tempo vola, sono già le 22:17, non sembra vero, ma è la pur sacrosanta verità. Allora, abbiamo una decina di minuti, abbiamo ancora giusto il tempo per ascoltare due canzoni, però sì. Prima i tuoi progetti futuri. Sì, come dicevo prima, appunto c'è in ballo questa cosa per un disco nuovo il prossimo anno, che penso sarà per l'estate prossima. Tempo di organizzarsi bene, continuerò. Sai il lavoro. Sai dove lo devi presentare, vero? Volentieri, molto volentieri. Io lo dico, poi vedi tu. Torno a trovarvi molto volentieri. Magari vediamo se Silvia è libera. Sì, è libera, già detto di se sì. Sono libera, guardate, guido io. Non come suo fratello che guidava. Esatto. No, no. Ok. E quindi c'è in ballo questa cosa che vedremo portare a termine. Tra l'altro c'è già qualcuno che è interessato al progetto per la distribuzione di tutta Italia, sempre nei limiti ovviamente, sì. Non cose grosse, ma sì, era giusto per me in questo caso fare questo disco nuovo, farlo fatto bene, come dicevo prima, no? E dargli un giusto valore, insomma, ecco. 30 secondi per spiegare Ascoltami e questo finale psichedelico di chitarra ilesergica al massimo. Allora, Ascoltami è il seguito di Ho qualcosa da dire, ovviamente. Inizia con Pino Daniele, secondo me, ma poi si scatena in un finale elettrico. Esattamente. Molto elettrico. Lì è stato chiamato un carissimo amico che è Efrem Scacco, che è anche lui di Azzano Decimo Pordenone, ed è un bravissimo chitarrista. Che è venuto in studio e gli ho detto: beh, senti Efrem, abbiamo fatto due o tre prove il giorno prima, insomma questo sarebbe una solo da fare, mi piacerebbe una cosa bella tosta alla fine, proprio come urlare Ascoltami, no? Certo. Anche con la chitarra. E alla fine lui arriva in studio, si siede, il fonico gli dice: dai, facciamo una prova, mando la base, vai, quando vuoi manda la base un pezzo prima. Lui parte con questo assolo, una roba incredibile. Il fonico ferma tutto alla fine, proprio finito, e lui fa: bon, dai, adesso facciamo quella buona. E noi siamo rimasti tutti così. Abbiamo tenuto la prova, quella che avete sentito è la prova che lui stava facendo, che stava provando questo solo. Perfetto. È quanto. Il tuo disco, se qualcuno volesse acquistarlo, dove lo si può trovare? Sì, allora, attualmente può contattarmi direttamente o su Facebook o sul sito internet ufficiale www.andreacia.com. E glielo posso far avere tranquillamente, lo posso spedire, oppure per quelli che sono delle zone dove ho le date, i concerti, lo può trovare durante i concerti. I cosiddetti banchetti. Tu li fai sempre assieme alla donzella lì? Ma io, quando ci sono delle date particolari in cui ho bisogno di dare più risalto alla musica mia, anche a un aiuto vocale, chiamo volentieri Silvia. Perché vedo che... Dio, vedo che viene volentieri. No, io esatto, sto per dire proprio questa cosa qua. Io dico sempre di sì. Cioè, ci manca nel senso... L'amicizia perché, cosa serve? Ma sì, ma certo. Poi con Andrea comunque siamo veramente tranquilli. Andrea è una persona tranquilla, ok? Che trasmette proprio... tranquillità, non c'è niente da dire, per cui ogni volta che posso dico: guarda Andrea, ci sono, poi se insomma se questo comincia o finisce con un pranzo, una cena a casa sua con sua moglie che fa da mangiare qualcosa per almeno un reggimento di... allora quello ancora meglio, ancora insomma meglio. Comunque io ti posso dire, svelo un segreto ma tanto lo saprai, sì. Già che lui ci tiene molto a te, sì, perché sì. Questa data è stata fatta apposta perché ci fossi, ecco, anche tu. Visto. Ecco, l'abbiamo allora... svelato adesso, sì, piacere il doppio. No, ho fatto male a dirglielo. Silvia è una di quelle persone che, nonostante gli succedano certe cose nella vita, tutto l'ambaradan che avete sentito prima, ha fatto un casino sta ragazza, e nonostante che gli succeda tutto questo rimane sempre Silvia, punto e stop. E questo secondo me è un valore aggiunto, ed è per questo che sia io, mia moglie, comunque la mia famiglia, ci siamo affezionati. E mi permetto di dire, posso dire che al di là che sia corista di Elisa o meno, potrebbe suonare con chiunque, ma certo. Quello non cambierebbe la mia opinione, anche se non suonasse con nessuno, tranne che con me. togliete il soggetto al femminile e tutto quello che ha detto Andrea lo posso dire io. Quindi, sì. Senti, ma ascoltiamo con una canzone e poi ci salutiamo con un'ultima canzone. Sì. Quindi ancora un paio di canzoni con la tua chitarra, le vostre voci. Cosa ci fai ascoltare adesso? Facciamo un classico, facciamo Wish You Were Here. Wow, di Pink Floyd. Sì, la abbozziamo su perché non abbiamo provato. Insomma, quelle cose che si fanno tipo a Pasquetta, no? Avete presente col Played sotto a un albero? Una bella ciotola di uova. Esatto, un bongo, una percussione e una chitarra, questa cosa qua. Prego. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a coarser rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did you get to the trade? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, and a hot air for a cool breeze, cold comfort for change. And did you an exchange, a welcome part in a war, for a lead role in a cage? We just two lost souls swimming in a fishbowl. Here after here, running over the same old ground. Why have we found the same old fears? Wish you were here. Questo è un pezzo che è anche fatto in duetto, è ancora più difficile perché, come si sa, i Pink Floyd non l'hanno mai fatto in duetto, chiaramente non c'era una voce femminile. L'unica voce femminile era in The Great Gig in the Sky. Great Gig in the Sky, esattamente, che quella è un'altra cosa. È un'altra cosa, un po' così, ecco, un'altra cosa. Dalla Dark Side of the Moon, altro capolavoro. Questo è un pezzo classicissimo, lo conoscono tutti, assolutamente. Assolutamente. Per fortuna. Per fortuna, direi, sì. Non hanno fatto nessuna comparazione, sicuramente. Dai. No, speriamo proprio di no. No, insomma. Infatti. Sono stati soddisfatti dalla vostra versione, basta. Beh, è già bene quello, insomma, quando ci si confronta con certi mostri sacri. È sempre difficile. Quando faccio le cover, preferisco personalizzarle un po'. Un po' perché ho, ovviamente, come tutti, anche io i miei limiti, lo ammetto, e alcune cose non riuscirò mai a farle. Ma un po' perché le voglio fare mie e non paragonarle a quelle che hanno fatto loro. Vero, giusto questo. Non cercare di farle uguali, ma questa è solo una mia idea. Negli anni 60 c'era quel discorso di fare le cover pari, riprenderle come erano in originale. Ma dopo il tempo è cambiato, è passato, e la gente ha cominciato, chi fa le cover, a personalizzarle. Certo, io credo un po' questo derivi anche dal fatto del vizio del cantautorato, certo, che ho, certo. Che quindi deriva un po' da lì, ma insomma... Ecco. Anche nel mio caso comunque così, preferisco sempre... Poi è una cosa che viene anche un po' fuori, no? Proprio la propria personalità che magari esce, per cui diventa... è quasi inevitabile. Però io penso che alla fine, anche per chi magari critica il fatto di riproporre le cover, finché si ripropongono i Pink Floyd, voglio dire, è sempre qualcosa di interessante. Beh, no? Se magari anche solo grazie ad una cover si dà la possibilità a qualcuno di conoscere un pezzo di musica, insomma, che non si conosceva, io penso che sia assolutamente... Certo, io ricorderò sempre per noi, per quelli della mia età, il Knocking on the Door che hanno fatto i Guns N' Roses. Sì, chiaramente, Dylan, molti l'hanno conosciuto dai Guns N' Roses. Sì. Quelli della mia età sicuramente hanno conosciuto da lì. Anche quelli della mia, senza dubbio, se la conoscono. Perché Guns, purtroppo ormai dobbiamo dire così, se la conoscono. Sì, i Guns sono esplosi dal punto di vista mondiale questa cover di Dylan, certo. Anche se i Guns avevano fatto tante altre cose. Sì, assolutamente. Però Knocking on the Door, tutti, è dei Guns. No, non è propriamente dei Guns. Non è proprio dei Guns, da parte Gareth Billy the Kid. Quindi un film western, però, come With a Little Help from My Friends, esattamente. Beatles, tu hai citato Joe Cocker, che è stato lanciato mondialmente con questo pezzo, che poi è un pezzo dei Beatles, chiaramente. E però, eccolo qua. Ma i Beatles, soprattutto Ringo, è stato molto contento che Joe Cocker riprese all'epoca With a Little Help from My Friends. Caspita, Silvia, ma non ti è venuto in mente ultimamente di fare qualcosa di tuo? Diglielo. La domanda da milioni di visto donne. La voce che hai. Allora, questo è un bel tasto, nel senso che è una cosa, sono poi nella fase della vita dove, ok, mi sono laureata il 20 aprile, bene, permetto. Complimenti, grazie. Per cui è finita questa fase, che è una fase che alla fine mi ha accompagnato per tutta la vita, perché io non ho ricordi di quando non andavo a scuola, ok, perché sono sempre andata a scuola. Per cui per me quella era comunque sempre un po' la priorità. E da qualche mese mi ritrovo invece a dover dire ok, tentiamo a farlo di mestiere. Per cui un po' per gli eventi della mia vita che sono stati comunque particolari e che mi hanno anche travolto sotto un certo punto di vista, perché comunque lavorare con Elisa a 19 anni non è una cosa semplice, è una cosa che può farti anche perdere dei punti di riferimento. Per cui non ho avuto devo dire la verità, neanche lo stimolo al momento di fare dei brani così. Ci sto un po' lavorando su adesso, ci sto un po' provando. Ogni tanto io la butto a Andrea mi dice dai, se magari un giorno hai tempo passa. Poi ovviamente ci sono sempre del mille cose, certo. Però sì, ti piacerebbe, devo dire comunque. Sì, soprattutto anche con Andrea magari unire questa cosa, insomma, la sua capacità cantautoriale e... Non so, mi piacerebbe anche sentire come riesco a interpretare una canzone che comunque viene scritta magari per me, come vede lui qualcosa scritto per me. E allo stesso modo penso potrebbe essere interessante anche per lui, no? Scrivere per qualcun quindi altro. Quindi accetteresti le canzoni scritte da altre persone? Sì, beh, se effettivamente non io non sono abbastanza in grado, o meglio, io sono particolarmente critica con me stessa. Per cui tutte le cose che ho fatto... In passato anche le ho sempre ritenute un po' delle schifezze, per cui mi vergognavo. sì, no, è la verità, questo è il motivo principale. Ma Silvia on the Way non vuol dire solamente Elisa, vuol dire anche qualcosa d'altro. No, assolutamente qualcosa d'altro. Ultimamente, diciamo dal 2010 ormai, abbiamo deciso insomma di, non di abbandonare, però di lasciare il repertorio prettamente elisiano per degli eventi, ok? Degli eventi che appunto magari... possono richiedere anche la partecipazione degli altri miei colleghi, no? Che hanno comunque collaborato anche loro con lei, e quindi far comunque qualcosa di un po' particolare, perché effettivamente diciamocelo insomma in maniera chiara e tonda, bisogna comunque fare un qualcosa che possa piacere a più pubblico possibile, certo. Una fetta di pubblico insomma diventa ampia. Pesante, se, non so se sei d'accordo, diventa pesante essere identificata come la truth band di Elisa, secondo me sì. Allora, non è pesante, io ci tengo sempre a dire una cosa, che io sono Silvia e lei è Elisa, okay. Per cui non mi piace, a volte c'è addirittura chi dice, ah, mi piace di più come canti tu i suoi brani, è una cosa che mi dà quasi fastidio, sì. No? Mm-hmm. Perché comunque stiamo, come dicevo prima, no? Non, io e Andrea non ci saremmo mai messi ai livelli dei Pink Floyd, voglio dire, no? E abbiamo cantato comunque una loro canzone, ma è proprio per tributare la musica, infatti il mio tributo non è Elisa, il tributo è la musica di Elisa, che è diverso. Questo è importante. Io non ci assomiglio, non mi vesto come lei, non mi atteggio come lei, sono... Silvia che canta le canzoni che di Elisa, le bellissime canzoni di Elisa, no? Per cui è questo forse anche un po' la mia arma vincente nelle cose. Bello poi, quello che dice comunque. Sì, perché sì. Non è un po' perché non forse neanche non ce la farei, perché non ma anche perché ho rispetto proprio per le sue canzoni. Non sarebbe bello, insomma, proprio fare un'imitazione. Per cui questo è quello che penso. E poi anche, appunto, dal 2010 abbiamo deciso di allargare un po' il nostro repertorio per dare la possibilità a un pubblico più ampio di comunque venire a sentirci, di apprezzarci, perché ad esempio se qualcuno non amava Elisa o qualcuno non ama Elisa e vede il manifesto della band che fa solo Elisa, non viene neanche a sentirci, no? Certo. Per cui abbiamo fatto questa scelta che alla fine è comunque vincente, perché abbiamo il modo, insomma, di cambiare anche, no? Sì, di rinnovarsi, come si diceva un prima. Un pezzo, sì, di Joni Mitchell, quindi esatto. Che Joni Mitchell non è mica semplice, molto complicata. È molto complicata. Poi non sei americana, no, o canadese, sei italiana. È ancora più complicato, sì, secondo me. È tanto complicato quanto bello, però. Ah, beh, bene, è arrivato Renato Ferro, quindi tra poco sentirete la sua musica, heavy metal, hard rock, fino alle ore 24, quindi non cambiate canale. Siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata assieme, sì, ad Andrea Cia e a Silvia Smagnotto, che ringraziamo ovviamente di essere venuti qui, di averci onorato con la vostra voce e la vostra musica. Voi. Noi ringraziamo voi perché non sempre abbiamo il modo di chiacchierare così, no, tanto. No, infatti. Poi qua è proprio vero, si è proprio in famiglia. Questo sì. Bello, bello. Salutami Giulia. Ciao Giulia, dopo ti porto i saluti. Va bene, allora ci salutiamo con l'ultima canzone. Andrea, lo ci fai ascoltare? Sì, facciamo una strofa ritornello di Magica, è una canzone dell'album precedente dal titolo 20 anni, la canzone appunto è Magica. Bene, io vi do l'appuntamento a quando, Maurizio? Tu che sei lunedì. A lunedì avrai Stefano Dainese, lunedì sera dalle 22.30 alle 24 e poi ci vedremo, ci sentiremo giovedì con una cosa molto particolare a proposito, sì, di cover. Presenteremo una band che fa... Femminile? Cioè, femminile, una cantante, una vocalista femminile, chiaramente fa una riproposizione di pezzi di... Gin Croce. Ecco. Non è mica semplice, è abbastanza. Ha fatto un disco dedicato proprio alle canzoni di Gin Croce con gli arrangiamenti loro, ovviamente. Per esempio c'è Agadaname che ricorda un po' i Procolaro. Sì, appunto, White Shadow all'inizio. Perché Gin Croce non è un musicista molto conosciuto dalle nostre, no, parti, infatti. È conosciuto solo in determinati pezzi, ma ne ha fatti tanti pezzi, anche per altra gente, Frank Sinatra, Docet. Però vi garantisco che il disco è molto bello e lei ha una grinta pazzesca. E poi ancora Friuli con l'11 di luglio con Rebi Rivale, che ci presenta un'esclusiva, quasi, insomma, il suo nuovissimo disco che è bellissimo. Vabbè, intanto adesso siamo con Andrea Cia, che salutiamo ancora una volta. Un abbraccio, un bacio a te, Silvia. Grazie, grazie mille, grazie a voi per averci ospitato. Grazie. E se vorrai, quando farai il disco nuovo. Assolutamente. Le porte sono aperte. Poi lei è DJ, quindi sono... esatto. C'ho l'aggancio, no? Quindi, come si dice, stay in tune, che esatto, magari sentirete Silvia. Ormai prima. mi proprio metto come un koala, proprio microfono, ok? Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao. Prego. Pensarci bene non lo so, che cosa è meglio fare e cosa no. Metto quel che trovo, tanto non mi muovo, resterò a guardare la TV. E Joe mi chiama e chiede, hey che fai? E non mi dire che rimani a casa, dai. Fuori è freddo e poi piove da due ore ormai, ma dove voglio andare io non lo so. Ma lui dice che sarà la notte magica, forse unica, piena di gente, di musica. Credimi, davvero, sarà magica, forse unica, tanto domani è domenica. Credimi, davvero, lo sarà. Thank you.